per molto tempo. Ruba molte anime e sottrassi molta fede agli uomini. Ed ero lì quando Gesù Cristo ebbe il suo momento di dubbio e dolore. Mi assicurai che Pilato se ne lavasse le mani, sigillando così il suo destino. Piacere di conoscervi. Spero che azzeccherete il mio nome. Ma ciò che vi lascia perplessi è la natura del mio gioco. Ero nei paraggi di San Pietroburgo quando vidi che era tempo di cambiamenti. Uccisi lo zar e i suoi ministri. Anastasia urlò invano. Cavalcai un carro armato, detenevo la carica di generale. Quando infuriò la guerra lampo, i corpi puzzarono. Piacere di conoscervi. Spero che azzeccherete il mio nome. Ah, ciò che vi lascia perplessi è la natura del mio gioco. Guardai con gioia mentre i vostri re e le vostre regine lottarono per 100 anni per gli dèi che loro stessi avevano creato. Voi ed io. Così, se mi incontrate, abbiate un po' di cortesia, abbiate un po' di solidarietà e un po' di gusto. Usate tutta la vostra cortesia, oppure io trascinerò la vostra anima alla perdizione. Yeah. Ciao a tutti, comprensione per il diavolo, Sympathy for the Devil, è il titolo della nostra puntata di oggi. Sì, vero. Proprio quello. Siamo in perfetto tema con l'elezione del Papa. Noi abbiamo voluto fare un omaggio, no? No, ci licenziano? No. Vabbè. Siamo già licenziati, non ti preoccupare. Ok, e, il tema della nostra trasmissione è questo, perché questa settimana... Questa settimana al Teatro Valle Occupato stiamo lavorando su Mefisto. C'è un interessantissimo laboratorio di drammaturgia a cura di Antonio Latella. E noi ci siamo fatti molto suggestionare da questo, tanto da costruire una serata sabato sera al Valle sulla vendita dell'anima. Per cosa puoi e vuoi venderti l'anima? E appunto su questo ci siamo lasciati interrogare da 3 romanzi celebri della letteratura mondiale, che sono Il Maestro e Margherita, Amore, Faust, Giovinezza e Dorian Gray. Potere. E siamo andati avanti in questa ricerca. E oggi la trasmissione sarà proprio su questo mood qui. E tanto per cominciare... Abbiamo subito qualcuno che si vende l'anima per il potere. Avessi tante anime, quante sono le stelle, le darei tutte per Mefistofele. Con lui sarò imperatore del mondo. Lancerò un ponte sull'aria e passerò l'oceano col mio esercito. Salderò i monti intorno al mare d'Africa. Ne farò un continente con la Spagna. E saranno entrambe vassalle del mio regno. L'imperatore vivrà per mia clemenza. E così ogni potente in Germania. Ora ho ciò che volevo. Vivrò studiando la mia arte finché lui non torna. E questo era appunto il Faust di Marlowe, che è uno dei testi che ci ha influenzato. Ora siamo assolutamente in questo, in questa condizione appunto diabolica, e per uscirne un attimo e rilassarci tutti quanti, siamo tutti molto eccitati, tesi per questo, volevamo uscire un attimo e raccontarvi quello che succede al Valle questa sera. Eh sì, questa sera. Tu volevi parlare? Io a questo punto dico una cosa, certo. Che volevamo esprimere la nostra totale solidarietà all'occupazione che c'è stata ieri di una palazzina, uno studentato occupato, il Mushroom Project, che spunteranno come funghi sulla Casilina. A Torpignattata è stato occupato una palazzina, stamattina è stata sgombrata, naturalmente il quartiere è stato militarizzato. La risposta degli studenti invece è stata chiara, netta e bella, con un corteo colorato che diceva appunto che i funghi non hanno radici e come tali quindi rispunteranno dove meno se lo potrà, ce lo solo potrà aspettare. E poi sono contagiosi i funghi, no? S'attaccano. Ok, a questo punto raccontiamo quello che succederà oggi pomeriggio al Valle Occupato, che è un Commons Caffè che ci racconterà adesso Emiliano. E a proposito di questo facciamo proprio una telefonata per raccontarvelo, e approfittiamo di questo per invitarvi oggi pomeriggio dalle 18, un Commons Caffè, ovvero questa formula che così tanto ci piace di apertura alla cittadinanza, ovvero il teatro come al solito certo è aperto, solo che abbiamo cercato di concentrare, di costruire dei piccoli momenti in cui ci si mette a discutere di cose che ci riguardano e ci interessano, quindi fondamentalmente i beni comuni e tutto quello che va con i beni comuni. E uno dei temi molto molto importanti dei beni comuni è, anzi due temi molto molto importanti dei beni comuni sono appunto il web, la rete, internet, come ci insegna Rodotà, ma anche il suo rapporto con il territorio. Il territorio è qualcosa di fondamentale nei beni comuni, proprio perché i beni comuni esistono rispetto alle comunità che decidono di salvaguardare questi beni. Quindi io lascio la parola a Emiliano, che questo Commons l'ha costruito e lo conosce molto bene. Allora, stiamo cercando di metterci in contatto con Carlo Infante, che è il nostro ospite di oggi. Io ho incontrato Carlo inizialmente in rete, l'ho conosciuto perché tante delle mie ricerche che vertevano su lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate al teatro finivano spesso con delle parole che avevano a che fare con il videoteatro, i performing media, le tecnologie connettive, e queste parole finivano spesso sui siti di cui Carlo Infante ne era stato il curatore. Carlo Infante si definisce un libero docente di performing media, ha curato tra l'altro uno dei primi festival di videoteatro a Narni. E è molto interessante e curioso l'uso che fa dei termini e dei linguaggi, che adesso, se abbiamo Carlo in linea, sarà un piacere ascoltare. Carlo, ci sei? Ho sentito la coda di quello che hai detto, ripeti? Beh, ho raccontato un po' come ci siamo conosciuti. Sì, stavo al telefono, non potevo agganciarmi prima. E naturalmente allora, presentarti è sempre molto, molto complesso, ma anche molto bello. Non solo, ma Carlo è anche un esperto di radio, perché è stato anche tra i primi produttori di Audiobox, dico bene? Sì, ma ancora prima, nell'81 a Radio 3... Radio 3, quando Radio 3 era molto, ma molto bacchettona, però immaginarvi negli anni 80 una cosa come Radio 3, solo musica classica, con dei parrucconi pazzeschi, e lì c'era una trasmissione che si chiamava Un Certo Discorso. Io nell'81 avevo 26 anni e lavoravo a Lotta Continua, ero redattore di Lotta Continua in quegli anni, e si mi chiama, e non solo, era la mia trasmissione preferita, perché dico questo perché è interessante di come la radio è di fatto una finestra sul mondo, che poi ma una finestra vera, perché poi il mondo te lo fai te, perché la televisione ci frega perché ci dà tutto il mondo già fatto, no? Mentre in radio te lo immagini, è una finestra sul mondo, ma ti invita a immaginarti. La radio era molto, io l'ascoltavo moltissimo, e molti della mia generazione in quegli anni ascoltavano quella trasmissione, mi chiamano e io inizio a fare radio, e dentro la radio porta un po' delle cose di cui parleremo oggi al Vale, tra l'altro. Che poi chiuderemo, possiamo tranquillamente anche adesso parlare sia di quello che un po' accenneremo oggi al Valle, che anche cose di cui magari non riusciremo a parlare oggi, quindi che sono anche fuori. La cosa bella è che partiamo adesso dalla radio e poi finiremo con la radio, ma sotto un altro punto di vista. Con il laboratorio, per esempio, di Roberto Pacidalò, abbiamo detto che la radio è tutto, anche un telefono cellulare, anche semplicemente un interfono, anche il megafono di uno stabilimento balneare può essere una radio. E noi oggi avremo perché è così importante la radio? Perché l'ascolto è la nostra prima competenza, cioè noi ancora prima di nascere, prima ancora uscire fuori dalla nostra madre, il feto sa già ascoltare, cioè quindi è così forte la radio perché è di fatto è la prima intelligenza, è la prima sensorialità, è la prima competenza, per questo la radio è così potente secondo me. Bellissimo, quindi oggi noi faremo appunto alla fine di questo un altro tipo di radio che è un giro radio guidato, una di questi tuoi walk show, giusto? Ci puoi raccontare qualcosa di quelle, le esperienze precedenti? È una sorpresa perché le radioline me le faccio arrivare oggi al Valle, che domani mattina mi sarei dovuto alzare troppo presto per recuperarle perché le userò domani. Occupiamo a radioline quindi. Usiamo ovviamente le radioline, quelle che usano i turisti, no? Quelle che ci fanno molta tristezza, tutti incolonnati con quella con la bandierina, tutti in fila giapponesi. Cioè, allora, la tecnologia è quella, ecco, semplicemente questo dovrebbe dimostrarci di come una tecnologia che può essere banale può essere usata in modo non banale, anzi, qualsiasi cosa tecnologia. Tenete conto anche l'alfabeto della tecnologia, quando capiremo questo ci smarcheremo anche da questa paranoia che spesso la gente ha per i computer, per le reti. Ogni fase storica, ogni generazione ha delle tecnologie che deve saper utilizzare e portare al proprio interno, all'interno della propria progettualità culturale e antropologica. Poter dire che quelle radioline così banali possono servirci per poter fare delle conversazioni itineranti, diciamo anche happening, nomadi, oppure walk show, inizia a diventare qualcosa di molto abilitante. Ti viene molta gente che non alzerebbe la mano per parlare in pubblico, quando ti fai una conversazione in giro per un come l'abbiamo fatto nei quartieri, come l'abbiamo fatto in posti stranissimi, domani la faccio dentro un bosco di Manziana per dirti questa cosa, eccetera, molta gente si mette in gioco. Ecco, una delle cose più fiche quando parliamo dei media, dico media non media perché la parola è latina, anche McLuhan faceva sto pezzo. La cosa di media è che sono delle nostre estensioni, cioè un medium non va da nessuna parte se no non ci mettiamo la testa e il corpo, cioè come dire, è fondamentale questa cosa, se proprio una partita doppia, antropologica, con qualsiasi cosa che è la nostra estensione, no? Una matita o un coltello, dipende, no? Di metterci un senso, anche un senso di responsabilità e tutto il resto. La cosa bella di queste radioline, tipo quando faremo l'incontro di oggi, sì, spero che si crei conversazione più che dibattito, mi faccio vedere le conversazioni di tipo. Certo. A un certo punto, quando decideremo, e andiamo, conducite il gioco, direi ok, andiamo a finire i tre, vorrei individuare 30, avremo massimo 35 radio, per farci una passeggiata dentro il Valle e continuare così, la coda dell'incontro, della conversazione, farlo itinerante. Fantastico. Si potrebbe anche uscire fuori di là, tieni conto. Ma questo tu l'hai mi racconti se qualche volta, mi pare di aver capito che tu hai utilizzato qualcosa del genere anche nei cortei, o quello era il mob tag? Allora quella cosa di usare con i ragazzi di Libera, cioè, allora io per tanti anni ho vissuto a Torino, per tanti anni mi sono occupato di Libera, tant'è che esiste un performing Media Lab di cui io sono titolare, per 15 anni non viene confiscato alle mafie a Torino. E quindi quando parliamo di mediattivismo, quindi il rapporto tra i media e l'attivismo politico e civico, l'impegno civile, che poi quando parliamo della politica di cosa stiamo parlando, no? È il principio di cittadinanza attiva, con i ragazzi di Libera e di Alcomos, che è un'associazione di questa galassia afferente a Libera, Gruppo Abele, eccetera, abbiamo fatto queste conversazioni all'interno di un corteo. Ed è anche un modo interessante per poter utilizzare quel tempo. Spesso ci si trova, io poi non li sopporto più i cortei, mi fanno una certa impressione, cioè preferisco più le smart mob, no? Che non sono le flash mob, anzi sono la stessa cosa, solo che flash mob è un modo banale per definire le smart mob, che è un termine che ha coniato Howard Rengold. Sì, lo abborriamo anche noi ormai. Che parte da Seattle, cioè Seattle è stata una smart mob clamorosa. chi si ricorda ancora dei telegiornali, nessuno si immaginava un'autoconvocazione così invisibile, nessuno se l'aspettava. Non avevano usato i manifesti, i volantini, avevano usato la rete per l'autoconvocarsi, sì. E spiazzarono tutti i telegiornali. Quello fu una delle prime grandi smart mob, che ha molto a che fare con gli happening, certo. Che ci interessano molto dal punto di vista della progettazione creativa, per dire che nel mediativismo l'uso delle radioline, io li chiamo wall show, queste passeggiate itineranti che sono la risposta ai talk show, sono performanti, puoi usare il tempo di un corteo per fare una riunione, questa è la cosa interessante. Perché parla uno, no? E ascoltano tutti, oppure possono anche parlare gli altri? Devi far girare il microfono, è tutto, okay. Lì, che se no diventa una visita, diventa un video speciale, cioè per chi ha uno che chiama a parlare parla tanto, so perfettamente che il valore della parola è se viene condivisa, okay. Si sentono premere dei tasti, gotico. Il microfonino deve girare, ci sarebbe anche tecnologicamente si possono avere anche più trasmettitori, però fai anche la colonna sonora mentre parlo, no, perché sento premere dei tasti, sei tu Carlo, forse stai premendo con la barba sul telefono, probabile, sai che cosa? No, hai ragione, ti ascoltano tutti con molto interesse. La puntata di oggi l'abbiamo chiamata Sympathy for the Devil. Tu come la vedi il vendersi l'anima oggi, per che cosa, rispetto anche magari alla rete, ti viene in mente qualcosa? Hai fatto un suono. Ma io non ho capito mai dove inizia il Dio e dove inizia il diavolo. Nel senso che se mi devo scegliere un Dio, scelgo Prometeo. La parola del diavolo io non ho mai capito. La forza del bene e il male, no? Infatti i taoisti sono interessanti, in quelle Yin e Yang c'è una sorta di compenetrazione dei due principi, e questa è la cosa interessante. Beh, Carlo, con te fare delle derive di narrazione è sempre un piacere, quasi sarei però tentato, visto che non è una divagazione, proprio significa entrare nel mezzo, no? Sento dei suoni del telefono che però sono anche simpatici, qui stanno ridendo perché almeno facciamo anche dei suoni oltre alle parole. Però devo mettere, allora dammi il tempo e mettere l'auricolare. No, vabbè, ma guarda, io credo che abbiamo già attivato un po' di interesse per il discorso di oggi. Mi piacerebbe quasi farti delle domande, cosa che forse oggi non riusciremo a fare, sulla tua conoscenza dei funghi, visto che stavamo dicendo poco fa che c'è stata un'occupazione che si chiama mushroom, che si ispira proprio al fatto di nascere in modo improvviso e non avere radici. Però dei funghi parleremo un'altra volta, tenendo comunque sempre alto l'interesse per il progetto mushroom. Però questa cosa della simpatia per il diavolo, Sympathy for the Devil, questo rapporto con il male e con ciò che ci fa male, ha molto a che fare anche con la cultura di funghi, Cioè, tieni conto che... Bella. No, ma è sicuro. Avete presente omeopatia? Vi dice qualcosa sta parola? Sapete che omeopatia significa? Sì. È che per guarire bisogna ammalarsi un pochino. Cioè, l'omeopatia significa che tu prendi dei rimedi che attivano nel tuo organismo un procedimento di feedback. Devi aggredirlo, devi stanarlo un po' il tuo fisico. Questa cosa è interessante. Guardate che i funghi ci insegnano questo. C'è una catalizzazione del minerale nel fungo. Non sono solo i funghi quelli che uccidono, tantissimi funghi possono far male, secondo la risposta al minerale che ciascuno di noi ha. Noi dai, è Mushroom Project. Ok Carlo, grazie. Allora ci vediamo alle 6 al Valle Occupato, nel foyer, dove ci sarà una doppia proiezione. E sarà un incontro, una conversazione con te, e che finirà in una passeggiata all'interno del valle, radio guidati. Ok, Ale. A dopo, ciao. Ciao Carlo, ciao. La prudenza è una vecchia zitella, ricca e brutta, corteggiata dall'impotenza. When she gets there, she Cause you know sometimes words have to mean in the tree by the brook. There's a songbird who sings sometimes all of our thoughts on this field. Oggi abbiamo un grande, il grande, grandissimo piacere. Proprio onore, perché, proprio onore, direi. Quasi. Esatto, perché il diavolo ci ha messo lo zampino di inaugurare quella che vorremmo diventasse una piccola rubrica, cioè l'angolo del tecnico. Naturalmente il Valle è un teatro antichissimo e per occuparlo abbiamo avuto bisogno di competenze altissime, quindi di professionalità che siano in grado di utilizzare un palcoscenico che è tra i più invidiati del mondo. E non solo il palcoscenico, ma le competenze, soprattutto quelle. Sono le più invidiate del mondo? Assolutamente sì. Ok, e le competenze, quindi le professionalità che stanno nel Valle Occupato hanno dato luogo ad altre professionalità, perché la formazione che abbiamo al Valle, la nave scuola dei tecnici, ha portato a dei giovanissimi tecnici che si sono formati e che oggi lavorano all'occupazione del Valle. Qui abbiamo con noi Marco e Alessà. Eccoci qua. Salutateci. Ciao. Due diabolici tecnici che sanno fare praticamente tutto. Praticamente. Lo fanno solo di notte, perché di giorno sono un po' figure che vanno e vengono. Diaboliche. Diaboliche. Forse sono bini, trini, chissà. Il palcoscenico si manifesta di notte. Esatto, i fantasmi prendono vita proprio durante la notte. E allora questi giovani ragazzi, che sono fantasmi più che altro perché lavorano un sacco, mo ci racconteranno un po' intanto come sono arrivati a fare i tecnici, come è andata per loro, e poi un'altra cosa che però ve la diciamo tra un pochetto. Ok. Come siamo arrivati a fare i tecnici? ci siamo formati anche fuori dal Valle. Io ho studiato scenografia all'Accademia di Belle Arti, sì. Di Torino. Pure io, però a Catania. Da dove? E quindi, vabbè, nell'Accademia, cioè, ci siamo formati in scenografia, che fondamentalmente non prevede il corso di Accademia anche una formazione proprio pratica. Quindi al Valle in realtà quello che succede è tutto una pratica. Quindi abbiamo iniziato a praticare seriamente dentro il Valle, dove la macchina scenica del Teatro Valle ha trasformato la nostra formazione in potenzialità. Poi è un teatro ideale, perché è appunto un teatro all'italiana, quindi con graticcia e palcoscenico in legno, tutto antico, è molto romantico. E quindi lavorate, si lavora sul palcoscenico del Valle, così come in tutti quei teatri all'italiana che hanno quella struttura e quel modo di lavorare, ancora in modo artigianale, cioè si mettono chiodi col martello, si fanno molte cose corde con le mani, canapa. Ci si inventano le cose, esatto, corde di canapa, si tirano sulle quinte con la forza dei muscoli, sì, giusto? Che roba che quando i tecnici vengono al Valle si lamentano sempre di non dover, cioè di non poter schiacciare un pulsante per tirare sulle americane, ma a noi ci piace così, sì. Ci appendiamo in tre o quattro a seconda dell'americana e tiriamo su. Doveva partire anche un training mattutino di sì, tirata sì, su di americane. Ma poi se voi lavorate la notte, come si fa? Giustamente la mattina siamo in letargo, però con le gemelline magari riusciremo. Io volevo velocemente, in realtà, per essere un po' seri, sì, dire come è andata per voi, nel senso che veramente avete partecipato a uno dei corsi di formazione per tecnici della nuova scuola che noi abbiamo fatto, giusto? Sì. Laddove la nostra idea è quella, al di là del fatto che i saperi possano incrociarsi, mischiarsi ed arricchirsi, c'è un discorso di, come dicevate prima, attività, come dire, nel senso che uno impara la teoria, pratica, e sì, poi si mette a fare. E questa è una cosa su cui noi teniamo molto al Valle, perché per noi è fondamentale proprio questa cosa qui, il fatto di poter praticare poi l'arte tecnica, giusto? Sì, proprio così. Poi al Valle ci stanno anche molti maestri, molte maestranze che fanno questo lavoro da anni, quindi sono per noi delle vere professionalità cui ci basiamo. Sì, è una palestra assolutamente unica, dove il nostro progetto, perché poi non siamo solo tecnici che hanno fatto la nave scuola, ma fondamentalmente in primis siamo occupanti, perché è una questione, è un rapporto di formazione costante che rappresenta non solo la formazione tecnica, ma l'interezza del progetto che stiamo costruendo. Quindi la formazione, diciamo, tecnica ci ha permesso, per i nostri, come dire, i nostri gusti e la nostra passione, di avvicinarci di più all'occupazione. E dopodiché quello che è la formazione è da intendere proprio su un piano totale del progetto. Ok, ma la cosa su cui volevamo concentrarci oggi, perché è qualcosa che potrete vedere, una cosa fantastica che potrete vedere sabato, se verrete appunto alla serata Mi vendo l'anima del Valle Occupato, è qualcosa che avete costruito per la serata siriana della settimana scorsa e che è veramente straordinario, perché l'hanno costruito in pochissimo tempo e si sono inventati una tecnica assolutamente di sana pianta. E ci hanno costruito il teatrino delle ombre. Il teatrino delle ombre. Ci raccontate del teatrino delle ombre? Per questo teatrino delle ombre, visto che io l'idea diabolica, visto che parliamo di vendersi l'anima, e dell'ingegnere qua a fianco, io lo chiamo ingegnere perché la grossa differenza è che lui prima di tagliare un pezzo lo misura 4 volte, io lo misuro a spanne, e quindi... intervisterò io per questo progetto, questa idea sensazionale che ha avuto e la realizzazione che poi ha stupito sia l'occupazione che il pubblico. Allora, ingegnere, volevo farle alcune domande appunto su questa idea che ha avuto. Da cosa nasce l'idea delle ombre? Cioè, giocare con le ombre è stato sempre una cosa che ho fatto, giocare con i modellini costruiti per le scenografie che facevamo in accademia, poi è stato un susseguirsi appunto di cose e che mi ha portato a vedere che l'ombra può suscitare un'emozione comunque molto forte allo spettatore, perché puoi creare drammaturgie solo con la riflessione di ombre anche su un muro. Quindi ho studiato un po' la storia del teatro delle ombre, ho cercato di evolverla basandomi anche su studi di Henri Rivière, che era uno scenografo francese che nel 600, diciamo, apportò le prime caratteristiche occidentali al teatro delle ombre orientale. Come culto. Non è solo tecnico. E quindi al Valle abbiamo sperimentato queste ombre in 3D. Cosa si intende per ombre in 3D? Noi sappiamo, le ombre sono bidimensionali, lo sappiamo da tempo immemore, invece no, l'ingegnere ha un'ombra tridimensionale. Come si fa a entrare in questa tridimensionalità delle ombre? È una quarta dimensione. Guardando il teatro delle ombre con un occhio più cinematografico, cerchiamo di apportare queste modifiche che sono appunto del campo cinematografico, cioè i movimenti di camera, che nel cinema sono dettati dalla camera, appunto, dal dolly, da tutte queste cose qua. Invece nel teatrino le facciamo con il movimento della luce, che non è più statica, ma è in movimento dentro questi modellini tridimensionali. Ecco, vediamo che le parole dell'ingegnere chiarificano completamente il dubbio che avevamo. Bene, quindi queste ombre 3D, fondamentalmente, finché non le vedete... No, non potete immaginarle. Non si può entrare in questo viaggio dell'ingegnere. Le ombre ci riportano però anche a significati filosofici in qualche maniera. Oltre a questi cenni storici, possiamo ricordare il mito della caverna di Platone, dove appunto sono ombre a determinare la realtà dei presenti a questo spettacolo, questo teatrino delle ombre, e anche se strappati a questa visione, portati fuori da questa caverna, la prima cosa che noteranno come reale saranno le ombre. Quindi su questo concetto mi dica come ha lavorato e ha proseguito, diciamo, il suo lavoro anche contenutistico di questo. La domanda è mal posta. Forse volevi domandarmi che ore sono. Va bene, allora è ora di passare la parola agli altri occupanti del Valle. Che... delle fantasmagorie al Valle per Mefisto. Cercheremo di far rinvenire delle anime grazie alle ombre. Quanta poesia, quanta magia che ci aspetta. diretta sabato alle 21 Vivendo l'Anima, una serata del diavolo, siamo pronti a tutti, perché poi tra l'altro mi viene in mente che è noto che gli artisti l'anima non ce l'hanno, perché sennò non sarebbero tali, no? E non meriterebbero di essere trattati così come ci trattano in questo meraviglioso paese. Ma lascio la parola a qualcun altro. Risponde il centralino della sede infernale centrale. E se volete parlare con il dottor Lucifero, formate i numeri 666 cancelletto. Un demone vi risponderà il più presto possibile. Per contratti, patti, maledizioni e spedizioni anzitempo, formate il 667 cancelletto. Per collegarsi con i vari gironi, formate il numero del girone e il tasto cancelletto. Esempio, per i lussuriosi formate 02 cancelletto, per gli eretici 06 cancelletto. Per i gironi 7, 8 e 9 formate prima i due numeri del girone e poi i numeri del cerchio, della bolgia o della zona. Esempio, per i bestemmiatori formate 0702, per i falsari formare 0810 e per i traditori dei benefattori 0904 e poi per... Ma non c'è un ufficio informazioni qua? E vi segnaliamo che il servizio informazioni non è previsto nella sede infernale centrale. Fate la vostra scelta. Riga, dove sta Dorian Gray? Boh, non sta, non sta. Non so, prova i lussuriosi, oh! No, lussuriosi, Lussuriosi, buonasera. Posso esserle utile? Cercavo il signor Dorian Gray. E da parte di chi? Teatro Valle occupato. Il Teatro Valle? Ma certo! Ma io leggo sempre di voi. Bravi ragazzi, non mollate! Ma ci conosce? Ma certo! Guardate che qui siete conosciutissimi. Ogni tanto qualcuno viene anche a qualche spettacolo. Alle assemblee poi non ne parliamo. Cioè, non dite che non ve ne siete accorti? Se no, scusate, ma pensavate veramente che sareste durati così a lungo? Che sta di? Oh, che sta di? Che sta di? Ma che sta di? Oh! Niente, che ci conosce. Allora, lei cercava Dorian Gray. Ah, quello del quadro, vero? Un attimo, ma siete sicuri che sia qui nei Lussuriosi? Beh, sì, Lussuriosi era lui, no? Beh, potrebbe essere anche negli Assassini, 0701, oppure nei Suicidi, 0702. Sa, questo è un posto molto democratico, il condannato va nel girone che gli si confà più nel momento. Gli si confà? Gli si con che? Gli si confà. Con che? Confà. Confà. Con chi? Dipende da come si è svegliato. Ah, ma come al Valle? Ecco. L'ho trovato, un attimo che glielo passo subito. Che emozione. Dorian Gray, buongiorno. Come posso esserle utile? Buongiorno, buonasera, non so. È veramente lei, oddio, che emozione. Intanto complimenti. Con chi parlo, mi scusi? Siamo al Teatro Valle Occupato, stiamo facendo una trasmissione Radio Onda Rossa sull'Inferno. Sa, adesso che ha appena fatto il Papa, ci sembrava il momento giusto. Il Papa. Ma non è così semplice, ragazzi. Certo, quello parla più con noi. Vabbè, lasciamo perdere, va. Che volevate da me? Parlare un po' della sua storia in questo momento è così attuale, tutto il problema dell'apparire, del non voler invecchiare. Lei che pensa? Che penso? Io non guardo molto la TV, ma penso che state messi molto male, ecco. È come se ognuno avesse sempre davanti a sé il quadro che gli restituisce la sua giovinezza, mentre lui invecchia. Insomma, un po' il contrario della mia vicenda, ecco. Non so qual è peggio. Ma lei che direbbe a un abitante del 2013 della Terra? Che direi? Non lo so. Voi sapete un sacco di cose più di me. Io non è che non volevo invecchiare. Io inseguivo la bellezza e basta. Ma la bellezza non è solo nella giovinezza, ragazzi. Invecchiare... La bellezza non è solo nella giovinezza. Ma lei che ci consiglia, per esempio, per una serata dedicata all'inferno che noi faremo sabato prossimo? Senta, forse rivolterei il problema. Direi che il fatto di voler essere sempre belli e perfetti Forse quello è l'inferno vero. Ma qui alla fine non si sta così male, anche se è una palla terribile. E signor Dorian Gray, le ricordo che deve fare il suo turno di albero. Sì, sì, arrivo. Scusate, ragazzi, tenete duro, eh? A presto! Com'è a presto? E sede infernale centrale, grazie per aver chiamato. Tu. Allora, per fortuna che siamo riusciti a parlare con il nostro protagonista di sabato sera, eh? Abbiamo un sacco di cose in più per lavorare sulla giovinezza, che è uno dei motivi per cui al giorno d'oggi le persone si vendono l'anima. Ora, dopo sabato, domenica. C'è la domenica. Meno male, così ci riposiamo noi al Valle, vero? E infatti ci riposiamo tantissimo. Per stare sempre belli e allenati, vogliamo parlarvi di un'iniziativa che ci sarà domenica sera, che è una di queste cose che solamente il Valle può ospitare, ossia avrete sentito parlare probabilmente chi più, chi meno, di Stanislavski. Sicuramente è un nome russo. E per chi fa teatro, per chi ha studiato lettere con indirizzo spettacolo, è qualcosa che rimanda sempre ai libri, dei libri anche un po' complessi da leggere, mentre abbiamo voluto riportare in vita in qualche modo Stanislavski, che non era altri che un appassionato di teatro. È uno che ha cambiato il teatro, al quale siamo legati tutti quanti, perché era veramente un appassionato di teatro, e io personalmente ho avuto modo anche di visitare il suo studio, il suo teatro a Mosca. E lui è stato il primo, Alessio se mi sente forse mi può anche correggere, perché lui queste cose le insegna anche all'università, suo malgrado, che fu il primo a analizzare veramente quello che era la competenza dell'attore, l'azione dell'attore. Era quello che fermava le prove dicendo: non ci credo, è inutile che gli attori facevano tanto, si dimenavano, lui si impuntava e finché non c'era la verità in scena non era soddisfatto. E quindi noi vogliamo ospitare domenica prossima questa iniziativa, che è una festa teatrale per i 150 anni di Stanislavski. È un progetto europeo che è stato ideato dal maestro di teatro Yuri Alshits e che toccherà varie città. È partito in Messico addirittura questo viaggio. L'intento è quello di scrivere un libro, con tutti quelli che vorranno portare un contributo al teatro. È partito in Messico, ha fatto una tappa a Bari, sta per andare anche a Berlino, a Stoccolma e a Vilnius. Allora Alessio, ci sei? Alessio Bergamo, regista teatrale, ci darà un sostegno teorico e anche di passione rispetto a quella che è la serata di domenica. Come la vedi? Come sarà questa serata? Si scriverà un libro insieme? Tu hai capito come funziona? Ma insomma, non del tutto, nel senso ancora dobbiamo finire di progettarla. Quello che ho capito è che è uno sviluppo, diciamo, di un'abitudine che c'è in Russia, cioè sostanzialmente quello che in Russia si chiama Kapustin, cioè la serata della verza, diciamo così, cioè sostanzialmente gli attori, la gente di teatro che hanno degli spazi loro di solito in Russia, delle case del teatro, un po' come il Valle lo è diventato, se vogliamo, si riuniscono in occasione di qualche festa particolare, mostrano scene, scambiano poesie, brindisi e cose del genere sul tema della serata, insomma c'è una sorta di festa che però è fatta con i mezzi del teatro e quindi con varie esibizioni che non sono per forza esibizioni proprio di scene, ma appunto possono essere letture, canzoni e quello che sia. Allora l'idea che mi pare di aver capito sta lanciando Yuri, anzi no, che mi pare l'idea sta lanciando Yuri è di festeggiare, di fare una sorta appunto di Kapustnik mondiale e fare tante di queste feste in onore di Stanislavski, del suo 150esimo compleanno, e poi testimoniarle un po' tutte, racchiuderle in un libro, provare anche un libro multimediale a questo punto, che lui vorrebbe come dedicare, certo. vorrebbe dedicare a Stanislavski, che si dovrebbe chiamare La nostra vita nell'arte, perché sì. la biografia di Stanislavski, il primo libro che lui ha pubblicato, si chiama appunto La mia vita nell'arte. Certo. Allora, siccome tutti noi abbiamo il nostro rapporto, il nostro... Qual è la tua vita nell'arte, Alessio? Così l'ho preparato. Siamo tra di noi. È molto discontinua. Questo è il dramma. È discontinua. Okay. Un po' come quella di molti, insomma. Sì, noi qua infatti oggi abbiamo dedicato la trasmissione al Sympathy for the Devil. Stiamo tutti un po' indemoniati. Purtroppo il problema è riuscire a capire cos'è il Devil, perché sono sono concetti che molto spesso sono intercambiabili. La mia vita nell'arte anche tu pensi, diciamo, che quello che mi attrae nell'arte è il momento in cui parte l'azione in teatro, azione che io amo improvvisata e che capisci che non si può fermare, che ti trascina e che sarebbe un omicidio interrompere, e in cui tutto funziona, in cui nulla è sbagliato, perché tutto viene e succede in quel momento. Quella è il senso della mia vita dell'arte, o il gusto, ma insomma prima è la stessa cosa, certo. Dell'arte. Va bene, ecco. Quindi invitiamo tutti quanti a condividere questa passione domenica sera alle 9. Sì, perché si suppone che ognuno ha delle passioni differenti, insomma, e però tutte contribuiscono a far sì che questa cosa, che non c'è una lira, che non serve a nessuno, in teoria. Oggi ho scoperto che la futura assessora alla Lombardia della cultura è quella che conduce la domenica sportiva. Ecco, diciamo, questa cosa inutile, lei organizzare al teatro Lombardo, ecco, questa cosa inutile, molto più inutile della domenica sportiva, in definitiva è ancora viva, perché interessa in maniera così diversa tante persone. Diciamo. Fantastico. Va bene, grazie Alessio, ci vediamo. Grazie Emiliano, un saluto a tutti voi. Ciao Alessio. Ciao. Ragazzi, hanno citofonato, vai a rispondere per favore. Chi è? Marilyn Manson. Oddio, lo vedi? Ci hanno sentito che facevamo la trasmissione sul diavolo, è arrivato. Digli di salire, che ci fa una canzone dal vivo. Sali. Scusi. No, stiamo aspettando Marilyn Manson, per favore. Marilyn Manson. Come, scusi? Marilyn Manson. Ah, Marilyn Manson. Ah, va bene. colui che desidera, ma non agisce, nutre la pestilenza. Questo era uno dei proverbi infernali tratti dal libro, dai libri profetici di William Blake, sempre per rimanere in tema satanico. E abbiamo invece in collegamento adesso un altro diavolo della commedia all'italiana, perché al Valle in questo momento è iniziato la settimana scorsa e proseguirà fino a fine mese il quinto capitolo del laboratorio Cavie, uno degli esperimenti che adesso il Valle ha cominciato a fare per questa stagione. Cavie è un laboratorio di drammaturgia e di scrittura creativa. Comica. E il quinto capitolo prevede una personalità molto satanica. È con noi infatti il dottor Giacomo Ciarrapico. Ciao Giacomo. Ciao, ciao. Senti, ti va di raccontarci un po', con il breve tempo che abbiamo, che cosa stiamo facendo durante il laboratorio di Cavie, con te? Ciao Mauro. È Mauro, no? Sì, sì, proprio io. Ah, insomma. Ok. Che orecchio del diavolo che hai. In realtà, perdonami? Ho detto che orecchio del diavolo che hai. No, mi sono appena svegliato perché non ho dormito niente questa notte, quindi... Buongiorno. Sono svegliato da poco, però riesco a dire uguale quello che stiamo facendo. La prima volta che ci siamo incontrati, io ho attaccato un mister a tutti delle tre ore, cioè più o meno mi sono parlato del mio mestiere, della scrittura, di quello che ho imparato, delle cose che ho sbagliato io e quelle che secondo me ogni tanto sono gli errori che si ripetono quando si inizia a scrivere, e questo magari per evitare di far perdere tempo a chi vuole incamminarsi all'interno di queste cavie, appunto, artistiche, se c'è qualcuno che vorrà fare questo di mestiere, evitare che all'inizio si imbattano negli stessi errori in cui mi sono imbattuto io, perché sono errori frequenti, ripeto, per chi è novello. Certo. Da lì, dopo aver parlato per tre ore, ho dato loro alle cavie, appunto, un compito. Ci ho chiesto di prendere un articolo del giornale che potrebbe essere interessante secondo loro, per tentare di desumerne o ricavarne un soggetto che fosse di una serie o che fosse di un film, cioè cercare di prendere quell'articolo là e partire un anno prima, creando con la fantasia tutta una serie di cose e dando a quell'articolo là una valenza emozionale nettamente superiore a chi la legge nel momento in cui magari sta sfogliando il giornale, ossia in questo caso qua, chi ha visto il film immaginario che ha immaginato la persona che ha fatto l'esercizio dovrebbe essere privilegiato, perché può emozionarsi rispetto a un cagnolino nel casco del terzo piano, invece noi che lo leggiamo come una notizia, un trafiletto di tre righe, ci sembra una notizia come l'altra e scordiamo. Cioè, questo è un esercizio che però poi ho visto si sono lanciati anche in parecchi. E adesso sceglieremo tra gli articoli che sono stati esposti e sono stati esposti, appunto, da chi li ha letti, e si sceglierà un soggetto per una serie televisiva, un soggetto per un film, e da in quel momento là inizierà una specie di scrittura collettiva. Certo. Io so perfettamente i limiti della scrittura collettiva, infatti sarà una democratica dittatura quella che sarà, cioè quello che... Senti, certo. Sarà il proseguimento del corso. Diciamo. Senti, una delle pillole che è venuta fuori dalle tue, diciamo così, non chiamiamole lezioni, ma una delle pillole di scrittura che ci ricordiamo è il concetto del beh certo. Ora, beh certo, se me lo puoi analizzare in un minuto e farci anche qualche esempio tragico del beh certo, credo che diamo un contributo. Ma no, io anzi, l'ultima volta siamo incontrati e abbiamo anche detto che molte volte il beh certo può essere un vantaggio. Cioè, molte volte, ahimè, il grosso delle volte è una tragedia, perché il beh certo invade la scrittura del peggio del cinema, e non parliamo neanche della fiction per esempio in questo paese. Cioè, no, innanzitutto parliamo del beh certo. Cioè, il beh certo, quando lo spettatore dice Beh, certo, cioè si sente rilassato, si sente tranquillizzato da una cosa e in cui tutto gli torna. Io facevo esempio, vabbè, ma insomma esistono anche la musica stessa, noi lo dicevamo, può essere un da certo, nel senso che tu metti una musica sentimentale, prima di una scena di sentimenti ed è tutto un enorme da certo. Se tu metti appunto una musica satanista, rimanendo in tema vostro, prima di una scena di Natale, non è un da certo. E ora non è detto che una musica di Satana prima del Natale funziona, però ciò per dire sicuramente non è un da certo, cioè non è una cosa per cui predispone lo spettatore a stare comodo. Per lo spettatore stare comodo significa anche se vede il disabile buono, perfetto, gentile, che è vessato dal cattivo, questo è il bacerto. Poi il bacerto può allargarsi in tantissimi orizzonti, purtroppo quando si inizia a scrivere... Aspetta. Che succede? Quando si inizia a scrivere si tende a... insomma, che ne so, a scrivere appunto di operai in lotta con il padrone cattivo e gli operai giusti e questo significa che non bisogna scrivere questi temi, è ovvio che bisogna scrivere questi temi, però bisogna stare in campana, perché se no la gente ti dice non ci casco, e invece noi, come vogliamo dire certe cose, bisogna essere bravi a far cascare le persone, perché questo è, però evitando un po' il becerto, perché sennò si emoziona di meno, si distribuisce meno, perché qualsiasi arte di scrittura, che sia di thriller, l'horror o comunque la stessa, ti deve stupirti, deve prendere in contropiede, non te l'aspetti. Io prendevo l'esempio dell'ascia, che se ti viene incontro fa meno paura che se ti appare da dietro. Certo. Va bene, Giorgio. Senti, grazie. Ma sei missile, va attaccato anche questa volta. Grande rossa da parte di Giacomo, Ciarapico. No, a parte scherzi, grazie tantissimo. E ricordiamo appunto che Cavie è un laboratorio, è iniziato il quinto capitolo, è iniziato a inizio mese e continueremo fino a fine marzo. Grazie Giacomo. Ciao. Un abbraccio. Dai. Ciao. A domani. Ciao. Ciao. Quando la giovinezza se ne sarà andata, la sua bellezza la seguirà e improvvisamente si renderà conto che non ci saranno più trionfi per lei. Oppure dovrà accontentarsi di quei mediocri trionfi che il ricordo del passato renderà più amari di sconfitte. Ogni mese che passa la avvicina a qualcosa di tremendo. Il tempo è geloso di lei e combatte contro i suoi gigli e le sue rose. Il suo colorito si spegnerà, le guance si incaveranno, gli occhi perderanno luminosità. Soffrirà orrendamente. Approfitti della giovinezza finché la possiede. Non sprechi l'oro dei suoi giorni ascoltando gente noiosa, cercando di migliorare un fallimento senza speranza o gettando la sua vita agli ignoranti, alla gente mediocre, ai malvagi. Questo era il ritratto di Dorian Gray, che potrete ascoltare dal vivo se sabato sera verrete al Teatro Valle occupato per la serata Mi vendo l'anima. Giusto? Giusto, Mi vendo l'anima dalle ore 21 con gli artisti del Valle Occupato, quindi non si sa esattamente cosa succederà, ma succederà sicuramente qualcosa. E fino a notte inoltrata potrete immergervi, scusate, in un'atmosfera satanica. Circondati da suoni, luci, testi, musica, immagini, corpi, teste mozzate, spettacoli di magia. Veramente l'impossibile creeremo. Creeremo l'impossibile, come al solito, certo. E io ne approfitto a questo punto per ricapitolare un po' la newsletter, darvi anche qualche anticipazione. Quindi abbiamo detto questa sera Carlo Infante con... Web e territorio rischia di essere un incontro importante e interessante, soprattutto alle 18 nel foyer del Teatro Valle. Nel foyer del Teatro Valle, il Commons Caffè. Dopodiché, sabato avremo Mi vendo l'anima alle 21. Cosa sei disposto a dare per avere quello che vuoi? E invece, domenica, a parte l'incontro su Stanislavski, di cui abbiamo già parlato diffusamente, vi ricordo 21. L'ultimo appuntamento invece alle 18 con i Common Stories. ovvero i beni comuni, commons nella storia, e l'ultimo capitolo si chiama La Costituzione italiana e il valore dei beni comuni con Gaetano Azzariti. Anche questo rischia di essere un appuntamento importante. Dopodiché vi do qualche anticipazione per la settimana prossima, ovvero martedì torna Cinema Altro con la proiezione di un lungometraggio e di un cortometraggio, ovvero Zoe e Nanà, di Giuseppe Varlotta, pluripremiato. Noi siamo molto contenti perché, se tutto va bene, ricominciamo a fare il cinema al Valle. E poi un altro appuntamento per il 21, perché festeggiamo un capodanno. Il capodanno curdo, perché a noi ci piace, come al solito, lo sappiamo benissimo, lo sapete benissimo, l'abbiamo detto miliardi di volte, contaminare le culture, fare incontrare le persone, più sono diverse e più ci piace, come si dice a Roma, e quindi appunto ne approfittiamo, ci divertiamo con questa cosa. E Nevroz in curdo significa appunto rinascita, significa nuovo giorno, per cui è un momento molto molto importante. E poi un'ultima cosa, caccia all'elefante bianco. Ah, torniamo indietro? Devo tornare indietro, mi dicono che devo tornare indietro perché venerdì abbiamo saltato un altro Commons Caffè, caccia all'elefante bianco, ovvero parleremo del ponte sullo stretto di Messina, e ho detto tutto, quindi tutta la speculazione che c'è dietro, tutta l'illegalità che c'è dietro, tutta l'inutilità di un progetto gigantesco che sta succhiando soldi da anni e che non vede luce, non vede fine. E poi infine, invece, mercoledì prossimo ancora un altro Commons Caffè, questa volta con gli urbanisti. Il titolo è Nuovi spazi di cittadinanza, pratiche e beni comuni nella città, ovvero questo seminario col Teatro Valle Occupato, il Duomo Cine Palazzo e il Cinema America Occupato, per parlare di ciò che succede quando i beni comuni investono la città. Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto e adesso ci lasciamo. Vi ricordiamo il sito, se volete comunque aggiornarvi sulla nostra programmazione, che è www.teatrovalleoccupato.it. E ora ci lasciamo con questo. Ecco che Viola si sta sbilanciando sulle gambe. Sposta il peso a destra e a sinistra. È una performance fatta di dettagli, piccoli movimenti, molto significativi. È in posizione di attesa, sembra rilassata, gli occhi sono bassi e cercano, timidi. Ecco, ecco, ecco! Inizia il ritornello? No, sta per iniziare il ritornello. Il capello è pettinato, fluente, inizia ad avere un movimento percettibile. Ecco il mestiere, signori ascoltatori, ecco il riflesso controluce dei capelli. Bellissimo! Bellissimo! Attenzione, attenzione! E inizia il ritornello, signori! Ecco la testa che inizia a ciondolare, lo sguardo si fa sicuro, poi dolce, dolce, sì! Ecco, ecco, si allarga un po', inquadratura. Attenzione, attenzione ragazzi, eccolo, c'è un leggero sculettamento, si intuisce. Si intuisce dalla testa, quando un corpo è organico, ogni parte del corpo fa muovere tutto il corpo. C'è un leggero sculettamento ed era la cosa giusta perché Viola non ferma il ciondolare della testa. Attenzione, attenzione, attenzione, scusate ma devo stare concentrata per seguire entrambi i movimenti, ma è ufficiale, è bravissima. È bravissima. È bravissima. Sta ciondolando la testa e ancheggiando lentamente insieme, contemporaneamente, e canta pure. E non perde il ritmo. Sorride, sorride, sorniona, si sta caricando ed ecco, signori e signori, si apre in un sorriso con la testa quasi reclinata all'indietro. È bellissimo, signori ascoltatori, bellissimo. E con questa bellissima immagine vi lasciamo. Linea al Teatro Valle Occupato. A giovedì.